La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, 16.30, primi 59 secondi di questo venerdì 21 di luglio. Da Milano vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto diretto in podcast. Oscar Giannino, vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @24.it, il numero di telefono 800 24 00 24. In particolare, se avete voglia, siccome parliamo di Alitalia in questa puntata, perché tra poche ore si aprono le buste consegnate, il primo round di bus, vi spieghiamo di che si tratta, perché questa settimana comunque si sono aggiunte novità molto rilevanti sul dossier all'Italia. La cosa che mi interesserebbe capire, se qualcuno ritiene di telefonarci all'800 24 00 24, e se nel frattempo, in vista delle vacanze estive eccetera eccetera, ma anche a prescindere da questo, per lavoro, voi state continuando a prenotare l'Italia o nel frattempo avete smesso e cambiate, non fidandovi di quello che succede di qui a quando poi viaggiate all'Italia, avete cambiato compagnia. Ecco, questo già come segnale per capirci, perché ha la sua importanza, per così dire. Allora, alle 18.30 di oggi, appunto, era annunciato, e dovrebbe essere così perché non ci sono novità nell'arco della giornata, l'apertura delle buste, quindi entro la serata dovremmo sapere chi ha fatto un passo avanti rispetto ai 32-33 soggetti che avevano manifestato un interesse generale preliminare a presentare proposte per all'Italia, che, ve lo ricordo, da alcuni mesi è in un'amministrazione straordinaria affidata a tre commissari. Le manifestazioni di interesse, secondo le condizioni che sono state rese note dai commissari, possono essere di tre tipi. Il primo, interesse a rilevare all'Italia così com'è, per intera. Secondo tipo, l'interesse a rilevarne degli asset, quindi per parti separate. Il terzo, un interesse anche solo a partecipare al risanamento finanziario, a presentare un piano, un proprio piano, da soli o in collegamento con altri, di turnaround, cioè di risanamento, che possa portare anche alla modifica del perimetro e della mission della società. Ci sono tre tipi di manifestazione di interesse diverse. Però, questa settimana sono avvenute cose di un certo rilievo su cui vale la pena di riflettere prima di conoscere dei 15 che sono stati ammessi rispetto ai 33 che avevano manifestato un interesse generale soggetti. Ne sono stati ammessi 15 al cosiddetto data room, cioè all'accesso a informazioni finanziarie riservate e gestionali riservate della società, e avendo avuto questo accesso hanno poi deciso, vedremo quanti e come, di che tipo, di presentare queste manifestazioni di interesse, che possono essere di tre tipi e verranno valutate poi dai commissari. Prima novità, oggi ne ha scritto il giornale: in realtà chi è stato ammesso, questi 15 soggetti, al data room, fa sapere che è rimasto molto deluso, perché qualcuno forse che ci segue anche sabato e Conti la Belva ricorderà che io, insieme al professor Ugarigo, abbiamo chiesto formalmente, io l'ho fatto anche con il ministro Carlo Calenda la mattina, insieme a Alessandro Milan, che i commissari ci presentassero e depositassero formalmente il bilancio 2016 di Alitalia, cosa che non è stata fatta. Ci sono state date delle cifre generali di perdita accumulata nel 2016, e neanche questo sapevamo, inferiore ai 500 milioni, ma non di troppo. Ci è stato detto che nei primi due mesi del 2017 il ritmo delle perdite ha subito un picco, superando i 100 milioni di euro al mese. E sulla parte patrimoniale del bilancio, diciamo, non è stata fatta una grande chiarezza. Insomma, il bilancio 2016 non c'è, e i 15 soggetti che hanno avuto accesso al data room per decidere che tipo di proposta e se presentarla, lo sapremo oggi, in realtà hanno fatto sapere: noi lì non abbiamo trovato dati riservati più approfonditi. Punto interrogativo, punto numero uno. Punto numero due, segnale politico. Il ministro Delrio, forse non è un caso, pochissimi giorni fa ha rilasciato le dichiarazioni di un tenore che nessuno del governo aveva rilasciato fino a questo momento. Cioè il ministro Del Rio ha detto: il nostro obiettivo prioritario è quello di cedere all'Italia intera, quindi le altre due manifestazioni di interesse, che in teoria sono formalmente prevedibili in quanto fanno parte delle regole a cui sono stati sottoposti quindi i soggetti che oggi sapremo se hanno presentato una proposta, cioè candidarsi a rilevarne delle parti o anche candidarsi da soli insieme a un altro al risanamento finanziario e gestione dell'azienda, nelle parole del ministro non esistono, perché le parole del ministro sono: o se la prende qualcuno per intero, e poi ha aggiunto, oppure il governo mette altri soldi pubblici oltre al prestito ponte di 600 milioni che è già stato concesso dall'Italia, grazie a cui l'Italia sta in piedi. Se continua a perdere 100 milioni di euro al mese, non a lungo, come è ovvio. Allora, questa dichiarazione del ministro Del Rio, disposti a tenercela pubblica, è una dichiarazione alla quale quasi nessuno ha reagito, ma che ribalta quello che era stato detto in apparenza sul fatto che non c'era nessuna prospettiva di statalizzazione. È vero che anche Del Rio l'ho aggiunto, però sai, se uno continua a tenersela coi commissari e con prestiti ponti è la stessa cosa, perché vuol dire che a quel punto spetterà ai commissari fare un piano industriale per l'azienda così com'è. Ecco, queste due sono le novità, per così dire. Allora, per capire che cosa ci possiamo aspettare dopo le parole di Del Rio e che cosa ci possiamo, cosa intanto hanno fatto capire anche un bel po' di soggetti che sono stati ammessi ai data room, e con noi Andrea Giuricin, a cui ci rivolgiamo insieme al professor Ugo Arrigo, alternandoli praticamente, su questa materia di Alitalia. Andrea Giuricin insegna economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Giuricin. Buon pomeriggio. Allora, cominciamo dai dati. Qual è il suo giudizio su questi resoconti sommari che abbiamo avuto intorno alle aperte 2016 e dei primi due mesi del 2017, ma al fatto che un bilancio 2016 completo di parte economica e patrimoniale non è stato depositato dai commissari? E cosa vuol dire che anche chi è stato ammesso ai dati non ha avuto accesso a documenti se non a questi? Secondo me è abbastanza scandaloso che questi dati non ci siano ancora, perché siamo ormai nella seconda parte del 2017, non si sa ancora come sia andata nel 2016, si hanno quantificazioni, si ha perso quasi mezzo miliardo di euro, ha perso 200 milioni di euro in due mesi all'inizio dell'anno, ma chiaramente i primi mesi sono sempre quelli più difficili dell'anno. Ma tutto questo secondo me non solo contro chi chiede maggiori dati per entrare nella data room, per sapere come rilanciare il business. È chiaro che se vuoi sapere come rilanciare il business devi sapere almeno come è andata fino ad oggi la compagnia per capire quali sono i problemi, ma anche nei confronti e soprattutto nei confronti del contribuente che ha dato 600 milioni di euro. Ha dato 600 milioni di euro a quale compagnia? In che situazione? Perché ad oggi nessuno sa niente, e forse anche il governo sembra non saperne abbastanza, e ha cambiato così in fretta la propria idea circa il prestito ponte e soprattutto no, un momento, o forse pubblico. No, questa è la seconda domanda che avrei fatto, ma giustamente il professor Giuricin mi anticipa. Forse la presa di posizione così nuova e diversa e così esplicita nel dire noi continuiamo a dare altri soldi all'Italia deriva dal fatto che il governo sa qualcosa che noi non sappiamo, forse. Può anche darsi, o altrimenti sembrerebbe che, dato che a novembre finirebbe poi il prestito ponte, che vogliono prolungare l'agonia di questa compagnia, perché nei mesi estivi probabilmente Alitalia non perderà tanti soldi, ma da ottobre in poi ricomincerà a perdere soldi. Allora a me viene quasi da pensare che un governo, diciamo Gentiloni, Renzi, sia quasi interessato a portare la partita all'Italia dentro le prossime elezioni. Perché? Perché dall'altra parte sicuramente Berlusconi non sa bene cosa dire, visto quanto è successo nel 2008, e 5 Stelle hanno idee molto confuse proprio su questo tema. Quindi magari Renzi il famoso piano del 15 maggio lo presenterà il 15 febbraio del 2018. Questo significa però che la probabilità più elevata è che noi continuiamo a mettere centinaia di milioni ogni botta per una compagnia di cui non conosciamo neanche i numeri. A me sembra veramente incredibile. Ma anche perché il silenzio che è seguito alle dichiarazioni di Del Rio, sbaglio come interpretazione politica, vuol dire che in realtà non c'è nessuno che abbia sentito utile, e quindi anche pensando tu come tutti pensano alle elezioni, utile dire no, questo è un errore. Cioè vuol dire che c'è un accordo, sia pur tacito, ma abbastanza diffuso sul fatto di continuare a mettere altri soldi in Alitalia. o forse gli altri partiti politici non ne vogliono troppo parlare perché sono molto deboli su questo argomento. In questo momento in cui Berlusconi sembra essere rinato, fra virgolette, e tornare in campo e via dicendo, non può parlare di Alitalia, perché la sua figura con i capitani coraggiosi non è stata delle migliori con l'italianità, tutti ce lo ricordiamo, no? I 4 miliardi del contribuente buttati via. Quindi io vedo molti motivi politici, ma è indubbio che il grave problema è la trasparenza verso il contribuente che ha dato 600 milioni di euro ancora una volta, e come noi avvertivamo già da tempo anche nella tua trasmissione, il governo, comunque la politica, sembra prendere in giro il contribuente. Che cosa hanno fatto capire alcuni dei soggetti che orientativamente abbiamo capito erano tra i 33 e poi sono tra i 15 scremati per l'accesso al diritto, visti i dati, di poi presentare la prima proposta più o meno impegnativa, perché questa è quella che dovrebbe essere presentata oggi. In queste settimane, in questi mesi, da che si è aperta la procedura commissariale, i grandi player del mercato europeo del trasporto aereo, quali sono i segnali che gli specialisti come te hanno colto di interesse reale intorno al tutto di Alitalia, a parte di Alitalia, oppure no? Sono interessati al mercato di Alitalia, non tanto alla compagnia, che chiaramente ha tante problematiche portate avanti nel tempo. Cioè, sono interessate ad avere gli slot, sono interessate non ad avere gli aerei, perché gli aerei sono in gran parte leasing e quelli che ha di proprietà sono vecchi, quindi valgono molto poco. Quindi indubbiamente il mercato italiano è estremamente interessante, tanto che io riporto sempre un dato molto semplice da comprendere. Se nel 1997, quando si è aperta la liberalizzazione, il mercato italiano aveva 53 milioni di passeggeri, l'anno scorso ne ha avuti circa 134 milioni di passeggeri. Quindi il mercato va alla grande nonostante l'Italia, quindi i grandi player europei sono interessati al mercato italiano, ma non ad Alitalia. Però è esattamente questo il senso del no alla cessione a pezzi che ha pronunciato per la prima volta in maniera così esplicita Del Rio. È come dire: non vi apriamo la porta a costo di rimetterci chissà quanti soldi del contribuente italiano. Un'illusione che io speravo fosse tramontata nella politica italiana, perché, ripeto, con il tipo di flotta che si trova all'Italia, guardate, neanche Mandrake riesce a renderla competitiva rispetto a chi in anni e anni ha continuato a investire, ha seguito la trasformazione del mercato, eccetera eccetera eccetera. Però questa è la mia opinione. È possibile davvero, stante la valutazione che sarebbe negli attivi patrimoniali di Alitalia a fine 2016 di un valore della flotta intorno a 100 e rotti milioni di euro, che l'intera flotta vale meno di quanto costa un velivolo a lungo raggio nuovo? Beh, è proprio qua che forse sta il punto critico. Tutti i vettori, per poter essere competitivi, hanno sempre investito in tecnologia, in flotta, miliardi di euro. All'Italia, con questa gestione commissariale, non può investire altri soldi, quindi perde altro tempo rispetto ai propri competitors, e soprattutto in questo momento anche i futuri nuovi entranti in Alitalia, investire 3-4 miliardi di euro per qualcosa di molto dubbioso, di cui non si sanno neanche dati, voglio vedere qual è l'investitore privato che lo vuole fare. Il sottinteso potrebbe essere però che un mercato che ha avuto tassi di crescita come quelli che tu hai citato giustamente prima, e comunque, e che abbiamo ben appreso in questa settimana, che comunque ha ben difeso la sua posizione di quinta destinazione turistica al mondo, eccetera eccetera, comporta per un vettore forte e strutturato internazionale e, come dici tu, davvero interessato al mercato italiano, avendo queste caratteristiche, comunque al mercato italiano, per caratteristiche interessanti, potrebbe sottintendere e richiedere come aspettativa da parte del governo un sovrapprezzo molto elevato rispetto al mero valore di libro della scassatissima Alitalia di oggi. Cioè è come se il governo facesse un appello e dicesse: guardate, dovete investire molto, lo sappiamo, però se ve la prendete tutta e avete forti spalle finanziarie e una ottima condizione di bilancio e di sviluppo dei vostri affari, il ritorno ce l'avete. È sbagliata questa aspettativa? Ho diversi dubbi che un investitore possa essere interessato a prendersi una compagnia intera che è sempre andata così male, che è difficile da ristrutturare. Gli conviene prendersi aspettative, soprattutto gli conviene aspettare fino al momento in cui ritorna di nuovo ad avere, non avere più soldi, cioè quando finisce il prestito ponte all'Italia sarà di nuovo in grande difficoltà, e quindi a quel punto potranno fare le loro offerte in diversi offerenti. Perché? Perché giustamente non fanno beneficenza verso l'Italia, sono interessati al mercato, ma lo possono sviluppare come hanno fatto le altre compagnie in questi anni. Infatti ricordiamo sempre che il primo operatore in Italia si chiama Ryanair, il terzo si chiama EasyJet e il quarto si chiama Vueling. Sì, chiarissimo. Allora, un minuto di traffico e poi torniamo e sentiamo anche qualcuno di voi che ci ha telefonato per dirci se continua a volare l'Italia o se tutto sommato non si fida, oppure se ha cambiato, ma anche per qualità dell'offerta e prezzi medi ovviamente dell'offerta. Tra un minuto. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... La versione di Oscar. Allora, risposte al volo, siamo tornati in diretta a parlare di Alitalia, in attesa che si capisca entro stasera chi e come e cosa davvero offre di questi 15 soggetti per Alitalia, primo passo per questa asta competitiva, di cui però è cambiata la natura, perché Del Rio a procedura aperta ha detto no, noi la giriamo solo per chi la prende intera, o altrimenti metteremo altri soldi pubblici. Risposta a quello che ci diceva adesso il professor Giudicin, è chiaro che per i soggetti che stanno nella gara ha senso fare proposte all'ultimo secondo, quando oramai finisce il prestito ponte, e il governo ha detto e noi continuiamo. Allora, risposte spot ad alcuni di voi che hanno mandato gli sms. Ce n'è uno che chiede la musica stamattina alle 8:20 con Alessandro Milan. Abbiamo mandato in onda una versione spinnata elettrica di Purple Rain, quindi ecco, quella era quella roba lì. Poi dopo il 9 abbiamo fatto, reso un omaggio anche ai 70 anni di Carlo Santana. Ma detto tutto questo, la stragrande maggioranza degli sms che leggo sono contrari alla opportunità che invece il ministro Del Rio vi ha annunciato di mettere altri soldi pubblici in Alitalia. In particolare grazie anche all'ascoltatore che mi manda con tanto di lunga fila di ombrelloni, perché sta al mare e dice: posso scriverla, l'Italia è da sempre statalizzata e da sempre gli paghiamo i fallimenti, la cedano anche a zero per quello che mi riguarda, ci potremmo guadagnare alla lunga. E vabbè, invidia per te che stai al mare, grazie comunque del giudizio, ma è giudizio prevalente, non è un sondaggio ovviamente, ma tra voi che ci mandate gli sms questa è l'opinione prevalente. Vediamo rapidamente telefonate di chi ci dice se continua intanto a volare all'Italia. Iniziamo con Maurizio che ci chiama da Modena. Prego Maurizio. Buongiorno. Senta, io cercherò di essere sintetico nel più chiaro possibile, anche perché penso che quello che dirò sarà da lei cassato, ma essendo lei un mercatista non si sa mai. Ascolti, io penso che non ci sia più spazio per low cost, per l'Italia così com'è, cioè tutti volano, io non volo più con l'Italia da un pezzo e credo che questo sia un punto fermo. Secondo, penso che, come dite voi, non si sa come siano messi i conti di Alitalia, quindi io riterrei, così la butto lì come proposta, che per rilanciare l'Italia non si debba più correre dietro a chi fa i prezzi bassi, a chi è più organizzato e chi è più avanti e più onesto, eccetera eccetera, bensì creare di Alitalia una specie di una compagnia, come potrei dire, una business low cost, nel senso che adesso i voli come sono fatti, buttata lì alla grande, 25% di business e tutto il resto di economy. Bene, i soldi le compagnie aeree lo fanno con il business, più che altro. Allora, creiamo una Alitalia solo che faccia una business più bassa, nel senso che crei e si rivolga a una clientela che non è disposta a spendere sempre per la business, ma un qualcosa in meno per trovare una soluzione, diventi quasi un bijou, una compagnia bijou per una diciamo così, una clientela. Vabbè, business. Maurizio, hai dato l'idea, però detto questo bisognerebbe cambiare flotta, allestimenti eccetera eccetera, cioè investire, chi lo fa? Lo Stato? Beh, mi pare di capire di sì, sia il suo sottinteso. Oh, io non boccio nessuna idea, io sono contrario, però detto tutto questo, sai, le low cost sono quelle che hanno assorbito e soddisfatto la domanda aggiuntiva di traffico nel nostro paese, non ce lo dimentichiamo. Monica dalla provincia di Napoli. Monica, prego. Dalla provincia di Milano, buonasera Giannino, e buonasera ai tuoi ospiti. Grazie, mi scusi. Per la verità, dalla città. Io sono nell'ambito del turismo, sono in albergo da 26 anni. Ah, quindi il settore. Noi ci occupiamo di formare persone, perché non vendiamo camere, non vendiamo posti aerei, sì, ma vendiamo servizio. Mm-hmm. Allora mi domando, visto che uno dei suoi ospiti, buonasera anche al professore, ha toccato il tema politico. Sì. Quale interesse ci sarebbe di questo governo Gentiloni-Renzi, e mi piace l'abbinamento Oscar, quale interesse ci sarebbe invece a prendere un management formato oppure a fare della seria formazione e risanare questa compagnia, che io credo non potrà mai diventare una compagnia low cost, ma perché non lo vogliamo, è un valore aggiunto del nostro paese e non va disgregata. Monica, però naturalmente significa che tu la vuoi ristatalizzare, ho sbagliato? È sbagliato, perché io sto parlando di un management esterno e sto parlando di pulizia, io non lo devo dire in radio, ma sto parlando di risanarla dall'interno. Sarebbe un buon tema politico, un buon bacino di voti. Sentiamo cosa ne pensa il professor Andrea Giuricin subito, ma prima ancora Flavio che ci chiama da Bergamo. Flavio. Buongiorno Giannino, sì. Sono Flavio. Sì. Senti, io per lavoro sono un frequent flyer, sono in aereo da una o due volte alla settimana, tutte le settimane, sì, ma io continuo a prenotare e a volare all'Italia, prevalentemente all'Italia, in larga prevalenza, perché ne apprezzo la totale qualità del servizio, mi sento un utente cliente persona quando sono trattato dall'Italia, riprotetto e via dicendo. E laddove non ci sono gli orari o le linee, ho volato sia con low cost sia anche con compagnie blasonate come British, Lufthansa e Air, sì, France, devo dire che non trovo lo stesso servizio e anzi su quelle compagnie blasonate mi sono caduti dei disservizi che in solitaria non aveva riscontrato. Vabbè, è un'opinione rispettabilissima di cui teniamo conto. Allora, giriamo la summa di questa, la sintesi di queste tre telefonate, che però riequilibrano i messaggi, perché due su tre avete detto che in realtà siete disposti a ristatalizzarla con finalità, uno ha detto bijou, l'altro ha detto con un management che ripulisca. Professor Giuricin, quanto costerebbe al contribuente perseguire, a occhio e croce ovviamente, è chiaro che dipende da come lo si fa, da che tipo di scommessa si fa, su che tipo di lotta eccetera, le ipotesi che alcuni dei nostri telefonanti, ascoltatori hanno tentato di avanzare? Allora, sicuramente non è facile fare delle analisi precisissime con così pochi dati. Posso partire dalla premium economy. Molte compagnie stanno puntando su questa premium economy, ma è solo una parte dell'offerta. Non si può pensare di fare un volo solamente di premium economy, ma sicuramente sul lungo raggio diverse compagnie ci stanno pensando. Ma come giustamente ricordavi tu, Oscar, bisogna fare degli grandi investimenti di flotta. Ricordo sempre, un aereo lungo raggio ti costa 300 milioni di euro nuovo, chiaro che si possono prendere anche in leasing e via dicendo, ma ci vogliono soldi. Ed è anche il tema un po' della seconda domanda, giusto il management, giusto avere un management efficiente? Io non voglio, conosco bene il professor Paleari e indubbiamente ne sa moltissimo, sì, di trasporto aereo, condivido, che è uno dei commissari. Condivido. Ma come al solito la grande critica che faccio a loro è quella: da dove arrivano i soldi? Da dove arrivano i soldi per poter investire nella futura Alitalia? Esatto. Soldi, senza investimenti la compagnia non va da nessuna parte. Esatto, e io spero solo che la politica non si rifaccia a riprendere dalla voglia di raccontare, scusatemi, frottole elettorali promettendovi bijou a spese vostre, perché ecco, io quello vorrei evitare che avvenisse. Sentiamo ancora un ascoltatore, Lorenzo, che ci chiama dalla provincia di Cremona. Lorenzo. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera Oscar. Eccoci. Ascolti, io volevo portare la mia testimonianza come viaggiatore per lavoro. Lavoro da viaggio da più di 10 anni con le compagnie aeree e per scelta non ho mai scelto Alitalia per due principali motivi. Uno, per il servizio scadente che danno, a parte la scarsa offerta che danno in termini di rotte, ma anche la sola interfaccia verso il cliente è molto scadente, anche dal punto di vista. La sua esperienza è totalmente divergente rispetto al precedente, sì, ascoltatore. Sì, assolutamente. E il secondo motivo è che io, come contribuente italiano, pago le tasse e non voglio più sostenere una cosa che non è sostenibile. Va bene, e io ringrazio anche Lorenzo. Come vedete, non spetta a me giudicare. Vediamo cosa succede oggi. Intanto lo commenteremo anche domani, perché dalle 10 alle 12 do appuntamento ai Conti della Belva con me, il professor Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminari, Renato Cifarelli. Parleremo, cari ascoltatori veneti, dell'inizio di alcune proteste in Veneto di azionisti e obbligazionisti, cause rispetto alle due venete, 1. 2. Ci occuperemo ancora una volta della tasse turistiche, affitti brevi, che è impagabile e sta creando un enorme problema a 120.000 host italiani. Non solo di questo, ma domani appuntamento alle 10 e alle 12, diretta come sempre Conti della Bebba.